touch from your beautiful hand. Morning kiss goodbye. If you forget, you should die. I know just where I stand. 8:33 minuti, si rientra in diretta per il Breakfast Club, i magazine di oggi che, come ben sapete, hanno diverse declinazioni. Oggi andremo in mostra per un incontro che si terrà domani al Museo dell'Ottocento. Spesso, appunto, cito voci che sono fondamentali per quanto riguarda la diffusione artistica, da Francesca Sinigaglia a Roberto Martorelli. Non dico certo giovani, però non vorrei che la parola giovani poi fosse intesa come motivo di ok, si stanno lanciando. No, sono assolutamente preparati, sono assolutamente presenti, li abbiamo conosciuti per le rassegne che troviamo a Palazzo da Curzio per quanto riguarda il cimitero deposito delle memorie della Certosa. A questa coppia aggiungo anche Ilaria Chia, storica dell'arte, co-curatrice, anche scrittrice, come vedremo a breve. Intanto mattiniere qua puntuale in diretta con noi, buongiorno Ilaria. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per questa chiacchierata che, come ho già anticipato, ci vedrà tra i protagonisti al Museo dell'Ottocento, una sede espositiva dove la ideatrice Francesca Sinigaglia ha avuto modo di portare un'attenzione di cui daremo specificità a breve con la nostra Ilaria qua con noi. Intanto entriamo direttamente ai contenuti dell'appuntamento di domani. Sì. Come, dove e perché? Allora, dove? Al Museo dell'Ottocento di Bologna, in piazza San Michele. Come abbiamo detto prima, questo museo è nato da poco, che raccoglie appunto alcuni capolavori della pittura bolognese dell'Ottocento, e è attualmente in corso una mostra dedicata a una pittrice bolognese, Carlotta Gargalli. Il titolo della mostra è infatti Carlotta Gargalli, una pittrice bolognese nella Roma di Canova, e abbiamo raccolto tutte le opere che abbiamo trovato di lei, di questa Carlotta Gargalli, pittrice neoclassica, un temperamento e un carattere straordinario, e una delle sue particolarità è stata anche quella di essere stata allieva del celebre scultore Antonio Canova a Roma. E questa è la prima monografica che viene dedicata a lei. E domani ci sarà un appuntamento particolare, quindi il salotto di Patrizia Finucci Gallo, che fa un'edizione straordinaria all'interno del Museo dell'Ottocento di Bologna, e parliamo di un'altra grande donna bolognese, Maria Brizzi Giorgi, che è questa, diciamo, astro della Bologna napoleonica. Vive tra il 1775 e il 1812 ed è una musicista, cantante e compositrice. Ecco, la cosa più particolare è appunto il fatto che fu una non solo una cantante ma una compositrice. Oggi potrà sembrare banale, in realtà all'epoca le donne che componevano musica erano veramente poche, era considerata un'attività maschile. Lei invece scrive musica, addirittura compone marce militari per la Guardia Civica di Bologna, quindi questo ci fa capire come fosse una donna molto moderna e controcorrente rispetto ai suoi tempi. E fu anche una salottiera di Bologna, quindi qui abbiamo il collegamento appunto con Patrizia Finucci Gallo, che è una salottiera di oggi, e insomma invece ritorniamo indietro nel tempo con Maria Brizzi Giorgi a vedere quali erano le salottiere di una volta, della Bologna di primo Ottocento. Quindi lei aveva creato un'accademia musicale nel salotto di casa sua, questa accademia polimniaca, nella quale ospitava appunto dei musicisti di passaggio a Bologna, insomma, ed era diventato un po' il fulcro della vita musicale e culturale di Bologna. E tra le altre cose le va attribuito il merito di aver lanciato sulla scena Gioacchino Rossini. Quindi Rossini, appunto giovanissimo, a 16 anni debutta come compositore proprio all'interno del salotto di Maria Brizzi Giorgi nel 1808, quindi le va appunto il merito di aver scoperto e lanciato Rossini. E appunto il titolo della serata di martedì è proprio Maria Brizzi Giorgi, la donna che inventò Rossini, per citare appunto il suo impegno un po' anche di talent scout, se vogliamo, certo, utilizzare, certo, un termine moderno. Tra le tante caratteristiche che ho citato di Ilaria, aria. Ops, ne ho dimenticata una. Speaker radiofonica, ma lo avete capito già da voi, secondo me. Quindi unico problema, non mica rubarmi il posto, no, attenzione. Tranquillo. Ecco perché il timore, ma sto scherzando, ovviamente, anzi indubbiamente valore aggiunto, anzi ti aspetto per altre puntate sia in mostra che dei magazine. Allora, mettiamo un po' di musica, dopodiché rientriamo, perché l'aspetto salottiero, che molte volte è inteso con una declinazione negativa, esatto. Spieghiamo un pochettino, mettiamo i puntini sulle i, dai. We live in a time of change, breathing what remains, left from the world before. Doesn't mean we should destroy, carry on, mistakes ignore, it's just all too short. Allora, io do qualche informazione, poi tu Ilaria mi correggi se per caso faccio degli strafalcioni come di solito accade. È all'interno della rassegna Bologna Pittrice, correggimi, perché io ho un grande entusiasmo di tutto ciò. E allora metto tutto insieme. Beh, non proprio, diciamo, la rassegna Bologna Pittrice è una rassegna che è già partita, cioè diciamo raggiungerà il suo culmine a partire dal 31 infatti, di marzo, vedi, con una serie di mostre. No, no, vabbè, perché il nesso c'è comunque. E la mostra di Carlotta Gargalli fa parte della rassegna Bologna Pittrice. Questa iniziativa di domani, più che altro è legata a questa iniziativa di Patrizia Finucci Gallo, che ha deciso di fare un'edizione del suo salotto all'interno dei musei, quindi il salotto all'interno dei musei. Allora, martedì 20 alle ore 17:30, okay. È il primo appuntamento di questa rassegna, poi ce ne saranno altri che verranno calendarizzati, sempre col suo salotto che si sposta all'interno di istituzioni museali, poi bello, non solo bolognesi ma anche nazionali, quindi appunto c'è questa particolare declinazione del salotto nella cultura, in particolare nei musei, questa riscoperta della cultura, insomma oggi appunto la pittura è fondamentale, anche perché poi fare arte e cultura è un modo anche per fare insomma politica a volte, insomma, nel senso più alto, diffondere contenuti, certo. Sì, esatto. Allora, intanto noi diffondiamo un'idea che spesso viene portata con un'accezione negativa, no? Il salotto, sì, non è un atteggiamento da arredamento o snobbistico, ma altri contenuti, sì, assolutamente. Infatti quando noi parliamo, dicevo, di Maria Brizzi Giorgi, che è una salottiera, oggi uno pensa, ma insomma, una signora annoiata che faceva il salotto, snob, no, assolutamente no, queste donne salottiere, diciamo. Maria Brizzi Giorgi è una delle prime a Bologna, insieme anche alla contessa Cornelia Rossi Martinetti, quindi c'è questa donna, questa moda che viene dalla Francia di fine Settecento, con queste donne che organizzavano dei salotti, ma nel senso proprio di veri e propri circoli culturali nelle loro case, e questo segna un momento storico molto importante, cioè quello in cui le donne si appropriano di un loro ruolo nella società, cioè non si accontentano di essere più quegli angeli del focolare che sono sempre stati, ma vogliono assumere un ruolo da protagoniste nella società, quindi invitano gli intellettuali, gli scrittori, poeti, musicisti a casa loro, e appunto sono loro che dirigono la conversazione, quindi per la prima volta abbiamo un ruolo attivo della donna nella società, che va a occupare anche quegli spazi che tradizionalmente erano maschili, quindi questa capacità anche di conversare, di scrivere, di comporre musica, diffondere anche. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale, anche perché appunto diventano proprio dei veri e propri cenacoli culturali, dove si ritrovano anche un luogo di scambio tra gli artisti, e che potevano conoscersi e scambiarsi idee, certo, visioni. Di conversazione, sì, certo. Quindi venivano poi anche molti, già a Bologna, allora anche molti stranieri, viaggiatori. Il Grand Tour, e tutti questi si fermavano anche a Bologna nei salotti, quindi era un arricchimento straordinario per la città, anche per Bologna. E questo sarà domani alle ore 17:30 al Museo dell'Ottocento, questa sede espositiva, dove la presenza che ci sarà domani anche di Francesca Sinigaglia vicino a te, ovviamente per dare valore aggiunto e motivo di diffusione culturale. Domani si parlerà quindi? Si parlerà di Maria Brizzi Giorgi, quindi questa compositrice, musicista, cantante bolognese, vissuta tra il 1785 e il 1812, però la Brizzi Giorgi, la carriera della Giorgi si intreccia anche con quella di Carlotta Gargalli, quindi con questa mostra che abbiamo, perché c'è un ritratto del padre di Carlotta, Filippo Gargalli, che è un ritratto proprio della nostra Maria Brizzi Giorgi. Quindi noi vedremo questo dipinto dal vivo, che è conservato normalmente nel Museo della Musica di Bologna e non è visibile al pubblico, quindi questa mostra della Gargalli, anche questo appuntamento di domani, un'occasione anche per vedere questo dipinto, e partendo proprio dal dipinto noi racconteremo la figura di Maria Brizzi Giorgi, partendo dalla tela di Filippo Gargalli. Facciamo uno stacco musicale con, detto da me, fa un po' scappare da ridere, ma questo autore svedese come nome d'arte, The Tallest Man on the Earth, l'uomo più alto della terra. A me sembra molto simile a Bob Dylan, più che, e quindi già una grande statura. Ascoltiamo questo brano, torniamo in diretta per gli ultimi minuti del Breakfast Club con Ilaria Chia, e troveremo anche un lavoro da scrittrice, per cui completiamo questo ventaglio di presentazioni. A tra poco. Just a passing bird. A volte il blues è come a volo d'uccello, per The Tallest Man on the Earth, l'uomo più alto della terra, questo cantautore svedese per la Dead Ocean, una prestigiosa label indipendente, assomiglia molto a Bob Dylan, sicuramente ispirato al menestrello del rock. Da buon Martin Mister dei poveri, anche ogni volta che vedo un libro subito mi appassiono, vado alla ricerca, vorrei saperne di più. Ilaria si è presentata con un libro, è il suo lavoro, a questo punto vogliamo saperne di più, Ilaria. Sì, allora mi sono presentata qui con questo libro, La lieva di Canova, che è un romanzo che ho scritto io, pubblicato con Damster Edizioni alla fine del 2022. C'è un motivo perché l'ho portato, perché è un romanzo che ricostruisce la vita della pittrice Carlotta Gargalli, quindi quella Carlotta Gargalli di cui vi parlavo prima, che potete vedere proprio direttamente dal vivo al Museo dell'Ottocento di Bologna, all'interno di questa mostra Carlotta Gargalli, una pittrice bolognese nella Roma di Canova. E quindi prima della mostra è uscito il mio romanzo, in cui appunto ho raccontato la vita di questa pittrice, che in realtà è una vita straordinaria, insomma anche romanzesca, perché è stata molto avventurosa e soprattutto lei, insomma, un carattere molto forte, questa pittrice bolognese, figlia di un ritrattista, che decide di andare contro tutto e tutti e di intraprendere la carriera di pittrice come suo padre. E allora appunto siamo alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, insomma, fare le artiste era cosa veramente insolita. Lei però dimostra una grande grinta. Nel 1804 è la prima donna risulta iscritta all'Accademia Nazionale di Belle Arti, sì, di Bologna, quindi un bel primato, e vince il piccolo premio curlandese, quindi insomma per una donna vincere un premio artistico era un fatto eccezionale. Ancora più eccezionale il fatto che riesce ad attirare l'attenzione di Antonio Canova, che viene a Bologna, vede le opere della Gargalli, un po' si innamora delle sue opere e decide di aiutarla, quindi di mettere una buona parola con l'Accademia perché lei possa andare a Roma a studiare. Quindi abbiamo la Carlotta Gargalli che vince una sovvenzione statale, insomma una sorta di borsa di studio, per andare a Roma per 4 anni a studiare in questa Accademia del Regno Italico a Palazzo Venezia, che era in qualche modo presieduta proprio da Antonio Canova. E quindi tutto il resto poi lo scoprirete, leggendo. Certo, abbiamo dato l'incipit, sì, adesso, esatto, sì. Abbiamo parlato di arte, di incontri, di grandi artisti e grandi artiste, abbiamo parlato anche di una pubblicazione editoriale curata da Ilaria Chia, e direi che i nostri magazine invitano ascoltatrici e ascoltatori domani al Museo dell'Ottocento alle 17:30, e appuntamento a domani alle ore 7 con la prima colazione in diretta. Domani avremo il Move to Groove e parleremo di superstizione insieme a Pietro Rossi e Paolo Onofri da remoto, il contenuto tra parquet e filosofia, e la nostra quotidianità sarà a colazione per voi con il Breakfast Club. Augurandovi un buon inizio settimana e lasciandovi con Edipè Enciclopedico, liberi dentro a seguire Rassegna Stampa con Caffè e Paglia, gli eventi dedicati allo sport nel weekend appena trascorso e la prima colazione in diretta per domani. Con un caloroso abbraccio io mi congedo e saluto Ilaria Chia ringraziandoti tantissimo per aver fatto co-conduzione assieme a me. Ti aspetto nuovamente. Grazie Ilaria. Volentieri, buona giornata. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.